Cosa dobbiamo aspettarci dalla scaletta? Che repertorio prediligi in questo periodo? Guarda, ripercorro un po' tutto, insomma, no? Parto dalle ultime cose pubblicate e man mano il concerto procede, vado a ritroso, nel senso che nella prima parte del concerto faccio cose che sono state pubblicate di recente, quindi dall'album Fine alla Moda, eccetera. Poi chiaramente mi occupo anche del passato, no? Verso la metà concerto in poi rifaccio un po' i brani che forse mi hanno rappresentato di più, insomma, dall'inizio degli '80 in poi, insomma, quindi la generazione, quanti anni hai, vorrei regnare, vedono bene il fiume, insomma, cose che mi hanno più rappresentato, come dicevo. Sì, tu hai annunciato che questo, da quel che ho capito, sarà il tuo ultimo tour, a meno che non ci siano magari eventi speciali o insomma, cose a cui non potrai Sì. dire di no. Questo perché non trovi al momento stimoli per andare in tour, oppure semplicemente No, per. no, è proprio perché intanto, ecco, diciamo che quella che farò a Terenciano è l'ultima data, è già in calendario da tempo, mi è stata chiesta questa data già da molto tempo fa. In realtà l'ultimo tour parte il 10 ottobre da Lugano. Sì, la prima data sarà il 10 ottobre. A Lugano, nell'auditorio della radio televisione svizzera di Stato, dove realizzeremo anche un DVD in collaborazione con la radio televisiva della Svizzera ticinese. E partendo da lì faremo un anno di tour, fai conto. Io conto di terminare capodanno del 2018, insomma. Ah, quindi avremo Quindi, ancora sì, un po' di occasioni per vederti dal vivo, sicuramente. ma perché, più che altro perché mi piacerebbe molto andare dove da anni non vado, per esempio in posti del sud dove ho molti amici, molta gente che mi segue, che è tanto che non ci vado, per esempio, no? Anche perché è un po', è sempre stato un po' più complesso anche economicamente per il sud ospitare concerti. E penso a, probabilmente faremo un paio di date anche Palermo, Catania, sei l'isola, insomma, sono difficoltose anche da organizzare, eccetera. Però ecco, diciamo che farò questo tour e mi va di farlo, ne ho voglia, anzi, mi piace, mi piace l'idea. È che dopo voglio dedicarmi un po' ad altre cose. Magari farò un disco nuovo, intanto, poi voglio dedicarmi anche ad altri aspetti artistici. Adesso non ti sto a dire cosa perché è prematuro, cioè quindi avrò altro a cui dedicarmi. Ecco perché dico l'ultimo tour, perché non credo poi, a meno che non ci sia qualche evento particolare dove potrei partecipare, nel senso che vabbè, però non, sì, l'idea è proprio quella di terminare in questo modo l'attività live, no? Fare un bellissimo giro toccando un po' tutti i posti che anche, come ti dicevo, da molto non vedo non incontro, e poi ecco, dedicarmi appunto ad altri aspetti, ad altre cose che Comunque ci sarà sempre della musica nuova, almeno in sotto forma di registrazione, sì, non è che dobbiamo pregarci sì. come Peter Gabriel magari 10 anni per un disco. Sì, ci sarà sempre No, beh, qualcosa. l'idea, sì, no, l'idea di un disco nuovo c'è, e quindi penso che lo farò, ecco. Poi, Bene, bene. tanto che non sono più ventenne, con la speranza, insomma, che la salute mi sostenga, allora sì, certo, ma non essendo più un ragazzino, no? Uno dice, vabbè, insomma, possiamo mettere in conto ogni cosa, no? Quindi, Sì, vabbè. facendo le corna, naturalmente. Comunque, Certo. beh, diciamo che hai avuto una carriera abbastanza lunga e il tuo bilancio rispetto agli esordi si è cambiato molto anche come sonorità, naturalmente, passando dagli anni 80 e anche reinventando un po' il tuo repertorio. Qual è il tuo bilancio rispetto agli esordi e diciamo le varie collaborazioni che hai avuto, che sono state diverse, anche molto interessanti, ho visto con i Neon, per esempio, hai suonato Certo, è con. stata. Guarda, io onestamente sono molto contento di ciò che ho vissuto. Cioè, ufficialmente 35 anni a livello pubblico, insomma, no? Quindi da quando ho iniziato. In realtà faccio musica da 40 anni e più. Sono soddisfatto perché non mi sono accorto, è stato tutto molto veloce. Sono passati Non, velocemente gli anni. certo, quindi mi sono divertito, quindi mi sono talmente concentrato in queste cose che non mi sono accorto di tutto questo tempo che è passato. E sono contento perché non mi sono mai fossilizzato su un cliché, su un modo di intendere la mia musica. Ho fatto tante cose nel mio stile, probabilmente nel mio modo di pensare alla musica, ma sperimentando tanti territori, tante situazioni, e questo mi è molto piaciuto. Ho la mia gente che mi segue, quindi sono soddisfatto, insomma, di questo. Chiaramente poi, come dicevamo prima, arriva un'età, un punto in cui è giusto fare dei bilanci, no? E dire: ok, ora magari mi occupo un po' più di me stesso e di altre cose, di me. Sì. Più che altro è questo, però devo dire, un bilancio soddisfacente per quanto mi riguarda, anche perché, ti dirò, non essendo uno, un artista che ha mai cercato di fare musica nazionale popolare, cioè non ho mai cercato successo commerciale per forza, perché per fare quello avrei dovuto fare altro genere Vabbè, sì. di song, no? Chiaramente. Sono soddisfatto anche per questo motivo, perché non ho mai cercato il successo fine a se stesso, e a tutti i costi. Lo dimostra Tra un po', virgolette, sì. ho sempre fatto i cazzi miei, insomma, no? Giustamente, sì. Fregandomi di queste cose, e anche questo è soddisfacente, perché non è facile esistere facendo ciò che ami, mi rendo conto, perché ti viene chiesto il compromesso, il sacrificio, queste cose dal mercato e dalla discografia. Però io ho avuto anche la fortuna di essere, come major importante in Italia, e di essere rispettato, ecco, per le mie scelte, non forzato a fare cose che probabilmente non mi andava di fare. Sì, rispetto al discorso della commercialità, lo dimostra anche se non sbaglio, due ultimi piazzamenti a Sanremo che praticamente sono il premio per chi invece vuole fare una musica un po' diversa, più originale, più magari che il grande pubblico non si aspetta. Sì, e certo, ma Sanremo è anche emblematico, no? Se tu ci pensi, arrivò ultimo Vasco Rossi, arrivò ultimo Zucchero, Ruggeri, insomma, eravamo lì. Mi ricordo che la classifica di quel tipo, io ho fatto due Sanremo nel 84-85, era praticamente simile, no? Io, Ruggeri e Zucchero avevamo praticamente sempre nelle ultime posizioni. Una volta lo ero io, una volta lo era Zucchero, una volta lo era Ruggeri. Cioè, e magari vincendo, essendo riconosciuti dal paese della Della critica. critica, Perché, esatto, sì. quindi, no, questo è un sinonimo di pedigree di razza, no? E quindi puoi essere sicuro. Ma in fondo anche perché Sanremo è sempre stata una grande vetrina commerciale, insomma, una pagliacciata all'italiana, che però fa costume, divertente, insomma, adesso non più credo, io non seguo, ma mi sembra molto decaduta anche questa vicenda, i ragazzi poi, la gente con l'avvento di internet, di altra tecnologia, non segue nemmeno più sta roba, no? Vede quello che gli interessa e poi chi se ne frega. Però anche quello è stato un momento anche divertente, piacevole della mia carriera, dove ho imparato anche tante cose, ho incontrato anche molti artisti, ho conosciuto lì Freddie Mercury, Toc Toc, i Duran Duran, ho conosciuto anche ragazzi altri e di altri posti interessanti, quindi sono state esperienze, ti ripeto, tutte molto interessanti, importanti, ognuna a modo proprio. Cioè, io ho avuto modo di andare in quello che è il covo nazionale popolare in assoluto, appunto Sanremo, e essere anche abbastanza perplesso, no? Sbigottito, e poi di fare, che ne so, di andare a Berlino, a Londra a fare Mr. Fantasy, che è un altro aspetto della televisione, per esempio, italiana, cioè, quindi di toccare tutti i poli, no? Beh, sei stato Questo infatti un po' un faro di ispirazione per molti gruppi nostrani. Secondo me, risentendo certe cose dei primordi, ha un po' influenzato anche il Battisti, poi quello elettronico che ha cominciato con Don Giovanni nell'86. Quindi sicuramente ha ascoltato anche i tuoi dischi all'epoca. sì, ci fu un episodio molto carino. Io non avevo mai, fino all'epoca, conosciuto Battisti, non l'avevo mai incontrato, anche perché è una persona molto schiva, fuori dai, certamente da non frequentatore di televisione, cose di questo tipo. Una volta ero a Milano. Mi ricordo era inverno, era penso l'83, 84, cioè forse sarei dovuto andare da lì a poco, appunto saremo con Radio Clima, ma mi ricordo che era un inverno, un gennaio, e io mi trovavo a Milano appunto perché ero lì per motivi professionali, probabilmente ero in studio, adesso non ricordo bene che per quale motivo mi trovavo in città, ma sicuramente era per lavoro. Ed era tardo pomeriggio, sera, erano circa le 18, essendo gennaio, era buio, già notte, insomma, e mi trovavo in una via centrale di Milano, la zona dello shopping, per intenderci quella. Via della molto. Spiga, quelle robe lì, Sì. insomma. Ero lì e mi sono fermato davanti a un negozio, una vetrina molto bella di antiquariato. E guardavo questi oggetti bellissimi, questo fatto costosissimi, perché a parte che già solamente in quella via ci sono veramente delle cose pazzesche dal punto di vista economico che tu vedi esposte, no? Questo era un negozio Immagino. antiquariato e essendo buio ed essendo illuminato, eccetera, la vetrina faceva un po' da specchio. Di fianco a me si ferma un tizio con la barba e guarda la vetrina, anche lui. Io alzando lo sguardo e riflettendoci nello specchio, visto che era Lucio Battisti, aveva la barba, per cui un po', sai, si mascherava, però la gente non fa caso, sai, soprattutto Milano, aveva tranquillo, una valigetta in mano, una borsa, una valigetta, e incrocio il suo sguardo, lui incrocia il mio. Io lentamente mi volto verso di lui e lui si volta verso di me e dice ciao. E dico ciao. Ciao Lucio. Lui sorride, mi dice solo due cose, no? Che tu interessato all'antiquariato. Dico, beh, sono degli oggetti, poi dice cosa stai facendo? Ma sì, io metto un disco nuovo. Lui dice barba, sì, anch'io. Mi saluta, mi dice ciao, e se ne va, basta. Questa è stata la mia conoscenza di Lucio Battisti, nel senso che non mi sono accorto però che mi conosceva. Come ovviamente io conoscevo lui, quindi mi ha fatto anche molto piacere. Poi qualcuno mi ha detto, lui è una persona molto attenta, seguiva molto privatamente il mondo musicale, anche quello italiano, cioè lui era un casalingo attento, insomma, ecco. Sì, sicuramente seguiva le cose più interessanti che uscivano all'epoca perché, appunto, ripeto, secondo me qualche idea l'ha presa dai tuoi primi dischi, soprattutto Ma la sua quando. voglia di elettronica dimostra un po' di piso, ecco, cioè, questa voglia di cambiare, questa voglia di rinnovarsi. Peccato, insomma, che la malattia abbia fermato Sì. la sua ricerca. Forse avrei potuto conoscere meglio, non solamente l'antiquariato, magari Sì. chissà. A proposito, come collaborazioni, cosa ti piacerebbe? Ne hai vissute tante, ma c'è qualcosa che vorresti fare, qualche artista con cui vorresti lavorare in futuro, oppure sei soddisfatto delle collaborazioni che hai avuto fino adesso? Ma sì, certamente sì, io amo molto poi stare con delle persone, ultimamente Con Luca. io e Luca Urbani abbiamo collaborato tantissimo, insomma, abbiamo Sì, condiviso molte cose, poi anche con altri ragazzi, del Duvertino, Don Menti, con Susonica, con Baustelle, insomma, ho avuto modo di. E in passato avrei battiato, cioè, condiviso un bellissimo tour piuttosto che con Mattia Bazzar, Tonini, poi quando ero Luciano, ovviamente, però devo dire, forse quello che mi sarebbe piaciuto, l'unico rammarico, è l'essere proprio italiano che ha permesso di proiettarmi all'estero, cioè condividere esperienze con artisti magari non italiani, ma forse quelli a cui mi sentivo più affine. Certo, l'Italia ha sempre sofferto di questo problema, no? L'esportazione solo per alcuni artisti nei paesi latinoamericani, per esempio, dei paesi, ma mai a dei livelli internazionali alti, ecco, voglio dire. Però questo, chiaro, è un po' il limite di questo paese, cioè di lavorare per l'Italia, e l'Italia difficilmente si riesce ad andare all'estero a dei livelli altri, intendo dire, non per i paesi che ospitano i nostri immigrati, e quindi va bene, ma è molto difficile per un artista italiano riuscire a esportare concretamente la propria musica, e proprio quindi anche collaborazione, è molto difficile. Sì, ci sono riusciti in pochi, un gruppo su tutti, la PFM per esempio, ma sempre per un periodo molto limitato nella metà degli anni 70 e poi Sì, anche quello. in un ambito anche che tuttora viene apprezzato anche all'estero, che è di certo tipo di rock, no? Prog rock, sì. Sì, prog, che è abbastanza ancora oggi molto ricercato in vinile, per esempio, Eh sì, no? infatti. Sono cose un po' particolari, un po' strane, no? Cioè, o, se vuoi, anche paradossalmente la musica del cartone animato italiana, no? E giapponese diventa interessante all'estero, però sono fenomeni abbastanza particolari, no? Cioè, di altra natura, insomma. Ti faccio un'ultima domanda, ricordando appunto che sabato sarai a Terenzano in provincia di Udine, e Certo. quindi ricordiamo questo appuntamento. E ti chiedo solo questo, cosa ti sembra della musica italiana di adesso, a parte i nomi che hai citato, insomma, che sono diventati ormai dei classici, insomma, c'è qualcosa che ti piace tra i giovani? Come ti sembra in generale la musica in Italia ora? La mia sensazione, e non sono, e non lo dico da nostalgico, perché non sono un tipo propenso alla nostalgia generalmente, quindi ciò che è stato si deve andare avanti e ricercare molto. Però ecco, al di là di questo mio non essere nostalgico, quindi non riferendomi al passato, mi sembra che si osi molto poco oggi, cioè che ci siano dei cliché moderati, no? Io lo dico spesso anche in senso un pochino polemico. Io non capisco cosa significa indie. Non Dobbiamo capirlo anche trovo noi. che sia un'emerita minchiata, nel senso che non esiste niente di indipendente, esistono delle posizioni. Io, per esempio, ho fondato nel 91 un'etichetta editoriale discografica privata, più che indipendente, no? E cerco di privatizzare la musica. Lo dico anche a tutti, lo consiglio. Oggi non esiste più la discografia, no? È morta. Direi di sì. C'è la De Filippi, ci sono Grande show, sì. due grandi centri commerciali della musica, Universal, la Sony, la Warner, ecco, sono questi tre ambienti che trattano molto di più con la televisione, con i media, no? Allora escono fenomeni che devono passare attraverso questi filtri televisivi, queste grandi fiction musicali che sono poi le cose che conosciamo, no? Amici, X-Factor, tutte queste stronzate, e che ovviamente trattano veramente, lì si tratta lì di musica. E che musica? Codificata, convenzionale, no? Cioè, prototipi commerciali di un certo tipo. E poi con questi atteggiamenti, appunto, definiti, io faccio musica indie, ma indie di sto cazzo, cioè, no, cosa vuol dire? Non significa niente. Mi sembra che ci siano poche idee e molto standardizzate, ecco. E questo mi dispiace. Perché mi ricordo, io quando avevo 17, 18 anni, 19, 20, avevo voglia di sovvertire le cose, non pensavo al successo, pensavo a quello che volevo dire, quello che volevo scrivere. Oggi, mediamente, purtroppo, se chiedi a un ragazzo cosa vuoi fare nella tua vita, eccetera, spesso ti rispondi, l'ho sentito con le mie orecchie. Spesso si risponde: voglio avere successo, voglio fare soldi. E io mi è capitato di dire: sì, ho capito, ma facendo cosa? Cosa vuoi fare? Ah, non importa, qualsiasi cosa, l'importante è che io abbia successo e faccia soldi. Quindi ecco, mi pare che viene un po' meno questa cosa molto importante, amare quello che si fa. Sì, E dopo riuscire a capire se quello che ami, che fai, ti permette di vivere, di andare avanti, eccetera, no? quello che si viveva una volta, parlo appunto degli anni Ottanta, in cui un gruppo faceva un demo, mandava il demo in cassetta a tutte le etichette immaginabili, faceva, Certo. non ricevendo naturalmente risposta, lo mandava alle radio, sì, è un iter che ormai è svanito nel nulla, non esiste più. Cioè, raccontare queste cose ai giovani adesso sarebbe un po' cioè, non ti credono neanche alla fine Ma sì, dei conti. ecco, perché c'è un ritorno, anche se vuoi, del vinile, di queste cose, ma cioè, voglio dire, molti non sanno nemmeno cos'è un disco, cioè, per quale motivo lo fai, ecco, no? Per amore, io sono ancora di quelli che con il mio manager, eccetera, facciamo edizioni speciali, particolari, insomma, cerchiamo di entusiasmarci ancora facendo cose esclusive, no? Magari per chi ti ama, per chi ti segue, non certo per la massa, ma questo perché, come diciamo noi, si lavora nella ricerca, nel cercare di scoprire aspetti nuovi del nostro lavoro, ma si lavora alla vecchia, come si dice da noi, no? Con dei valori, se vuoi, forse anche un po' antichi, che però sono sani, Sì, che una sono quelli. volta erano un po' la norma e adesso invece si sono visti come un retaggio proprio del passato. Esatto, io mi diverto ancora come un bambino quando ricerco una confezione, una copertina, c'è l'atto creativo importante. Adesso il 21 settembre uscirà il mio doppio live, appunto, no? Che accompagna questo ultimo tour, che è il mio primo live ufficiale, un doppio CD. E anche lì abbiamo già fatto un wooden box in legno molto bello, cioè che è sold out, perché abbiamo fatto per la gente 35 copie. Lo puoi vedere nel mio sito in Facebook, è una confezione in legno particolare, un cofanetto molto molto bello che contiene, se vuoi, tutto il percorso della mia vita, come simbologicamente. C'è il vinile 45 giri, c'è la chiavetta USB, Sì. con tutto il concerto, c'è l'audiocassetta, a nastro, Anche, però. certo, c'è il CD, quindi dal vinile alla cassetta, il CD, ecco, ci sono molte cose dentro questo Wooden Box. Ecco, noi ci divertiamo ancora a fare delle cose particolari. Appunto, ti dicevo di questo mio primo ufficiale live, un concerto intero, un doppio, ne faremo anche un DVD, appunto in collaborazione con la Radio Televisione Svizzera, e avrà una confezione particolare anche quello, sarà probabilmente in metallo, eccetera, eccetera, con alcune cose. Ecco, abbiamo ancora la creatività e abbiamo questi sforzi. Fortunatamente ho uno zoccolo duro che mi vuole bene, che mi segue, mi supporta. Ecco, Giustamente, direi. questo direi che è tutto. Però mi pare appunto che rispetto alla sua domanda, cosa ne penso oggi di quello che accade, che tutto questo sia latitante, manchi nei giovani. Per Sì, c'è solo la ricerca cui del non ci. successo facile e basta. Sì, e quindi questo a discapito del fatto che non ci sono cose avant-garde in generale molto interessanti. Ci sono un po' a macchie di leopardo qua e là, qualche realtà magari un po' più interessante che però viene soffocata, che non ha spazio per avere visibilità più di tanto. Sai, poi il web è veramente un oceano enorme dove dentro la roba si perde, insomma, no? Sì, ogni tanto viene fuori la punta di un iceberg che può rivelare Esatto. qualcosa di interessante, ma dopo è un punto di domanda continuo a quello Eh che può venire fuori. sì. Purtroppo sì, perché lo spazio è poco e la proposta è enorme. Sì, E tutto dura un battito di ciglio, se vuoi, no? esatto. Bene, io ti ringrazio per questa illuminata intervista No, grazie e a te. rimandiamo gli ascoltatori al concerto di Terenzano sabato questo e ci vediamo lì, insomma, e grazie ancora di tutto Assolutamente. e buona giornata. Certo, io vengo a trovarvi. Ok. Ok, ci vediamo tra qualche giorno. Ok, Ciao. grazie, grazie, ciao. Grazie a te, ciao.